Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio e buon compleanno a Giovanni Trapattoni, 70 anni, con auguri ricevuti da tutto il mondo. E lui, che anziché sul dondolo col play sulle ginocchia, no? data l'età, insomma, comunque ragguardevole, è fresco come un ragazzino, è in Irlanda a preparare la sfida con l'Italia, Italia-Irlanda a Bari, mercoledì 1 aprile. Non è un pesce d'aprile, è un confronto per il primo posto del girone di qualificazione al mondiale. Sentiamo un primo frammento del vecchio inossidabile Giovanni Trapattoni. Beh, devo dire, mi vengono in mente le parole di qualche mio allenatore del passato che diceva: c'ho gli anni, però la mia testa è molto giovane. Io sinceramente, fortunatamente, ho la salute e sono ancora abbastanza lucido fino adesso, quindi mi sento un ventenne. Beh, forse i primi minuti, che l'inno nazionale, forse quando si entrerà in campo, poi sarò sicuramente assorbito da quello che sono l'impegno e le difficoltà dell'impegno. Ma penso innanzitutto sono i giocatori che hanno creduto al nostro progetto, ci hanno seguito, abbiamo avuto sicuramente anche qualche briciolo di fortuna, però quando si crede in qualcosa si ottiene anche. Credo che i ragazzi ci hanno seguito su piccoli particolari. Sentiremo più tardi altri frammenti vocali di Giovanni Trapattoni, recenti, anzi di giornata, freschi di giornata, e magari qualcuno antico, tra cui il memorabile show di Monaco, quando se la prese con un paio di giocatori del Bayern, e uno di questi aveva un cognome discretamente inquietante, visto lo sfogo del trap. Lo ripasseremo più tardi. Adesso siamo collegati con Nicola Roggero. Buongiorno Nicola. Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. Sapete che Fabio Tavelli è il nostro ministro degli esteri per quanto riguarda il calcio internazionale, Nicola è un po' più di un sottosegretario, non mi andrebbe, diciamo che siamo certamente alla pari con Fabio Tavelli, con una competenza più specifica su tutto quello che accade oltre Manica, vero? Sì, infatti mi faceva piacere sentire il trap e pensare che anche lui, come cappello, ha fatto un po' come Cesare, è andato ad insegnare in questo caso il football, non ai sudditi di Sua Maestà, perché parliamo degli irlandesi, ai repubblicani di San Patrizio. Fra l'altro la cosa divertente è che Trapattoni ricordava che lui è nato proprio il giorno della festa di San Patrizio. È vero. E di conseguenza c'era un motivo in più per cui dovesse capitare nella Verde Irlanda. C'era nel destino, insomma, era segnata questa cosa. Dunque, come sempre il martedì, in attesa poi dei vostri interventi all'800240024 su questo e su altri argomenti, per esempio, in molti reclamano, faccio un inciso non brevissimo ma credo significativo, scrive un fiorentino, Lorenzo da Firenze, primo messaggio ricevuto oggi: dopo la polemica su Balotelli seguita a Inter-Roma, che ne pensa dei cori e tifosi della Fiorentina durante Inter-Fiorentina? Se fosse giudice sportivo, quale sarebbe il provvedimento giusto da prendere? Ma insomma, io è meglio che non faccia giudice sportivo, perché sarei probabilmente troppo severo. Certamente ho molto condiviso stamane un corsivo passo sulla Gazzetta dello Sport, firma Luca Taidelli, il titolo è: quei cori su Balotelli sono roba da medioevo. Nel corso del testo si legge che Balotelli può anche non essere simpatico per certi suoi atteggiamenti, ma i cori, che non sto a ripetere perché purtroppo già si sono sentiti in TV, dedicati domenica a questo ragazzo, visto che integrano in pieno il reato, fino a prova contraria, di razzismo, secondo me sarebbe ora che ci si decidesse a punirli in maniera molto molto più severa, come per esempio accade in qualche paese più civile del nostro. Balotelli è un argomento. Stasera c'è una giornata di Serie B di campionato. Ci sono queste cifre inquietanti sul rendimento di Ibrahimovic in campionato e quello dello stesso Ibrahimovic in Coppa, qualche malumore suo, qualche perplessità dell'Inter. C'è un delizioso articolo di Vittorio Zucconi a proposito dell'erba di San Siro, che non è l'ultima delle ragioni per cui lo spettacolo di Inter-Fiorentina domenica sera è stato, già la parola spettacolo è impropria, insomma, l'esibizione è stata di rara mediocrità complessiva. Insomma, si può parlare di un sacco di cose. Noi però cominciamo dall'estero e mi pare, Nicola, che si siano delineate due tendenze nei quattro campionati che contano, e cioè in Spagna e in Inghilterra comunque le distanze restano, anche se non sono più quelle di pochissimo tempo fa. In Francia e in Germania si sono create delle classifiche emozionanti. Sì, divertentissimo, soprattutto il campionato francese, che era praticamente il leone come binda, cioè sarebbe stato necessario pagarlo per stare a casa, per rendere interessante il campionato e a seguire tutto il resto. E invece adesso abbiamo una classifica che vede il Lione sconfitto fra l'altro in casa dall'Auxerre nell'ultimo turno a 53, una lunghezza dietro PSG, cioè Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia, che tra l'altro si sono affrontati nell'ultima giornata con vittoria dell'Olympique Marsiglia. A tre punti dal Lione c'è il Bordeaux allenato da Laurent Blanc, un giocatore che io personalmente ho sempre adorato, evidentemente è bravo anche come allenatore. Sì. Poi più indietro ancora, ma a quattro punti dalla testa, ci sono il Lens e il Tolosa, e se vogliamo allargare a sei punti c'è il Rennes, quindi ci sono sette squadre in sei punti. Quindi tutto quello che i francesi non hanno avuto nelle ultime stagioni l'hanno invece all'improvviso in questa, complice il calo del Lione che insomma anche in Champions ha dimostrato evidentemente dei limiti, è stato massacrato dal Barcellona negli ottavi di finale. Però evidentemente c'è anche una crescita delle altre squadre, tanto che il calcio francese è il più rappresentato in questo momento negli ottavi di Coppa UEFA, quindi c'è una crescita dei francesi non soltanto come nazionale ma anche a livello di club. Certo, un altro fiorentino, Gianni, scrive: Trapattoni è l'esempio di come la vita debba essere una continua tensione positiva, mettersi in gioco, in discussione sempre, sapersi ancora stupire con l'entusiasmo di chi si è fatto da sé. Ecco, trovo un bel ritratto questo, molto sintetico ma molto, molto pregnante e molto somigliante per l'appunto all'originale che è Giovanni Trapattoni. Un altro ascoltatore, Omar da Bologna, dice che Nicola Roggero potrebbe essere il ministro Ombra, e questo è carino, direi. Non so come ti trovi nei pari di ministro Ombra, ma è bellina. Beh, allora, spero più vicino all'esempio dello shadow gap cabinet in inglese che non a quello italiano, dove mi sembra che il governo Ombra non abbia avuto sin qui troppo no, successo. Però no. Va benissimo così, anche perché esalta il mio ruolo di eterno oppositore a qualunque cosa, quindi enorme piacere. Anche lì ti ci ritrovi, come in quel mini ritratto del trap fatto dall'altro nostro ascoltatore. Oh, la Francia si è ricompattata come ci hai raccontato, la Germania. La Germania, c'è questo Hertha Berlino che è una squadra che gioca molto bene al pallone e che attualmente ha 4 punti di vantaggio sul Bayern Monaco, che quest'anno sembra più orientato a puntare alla Champions League. Poi c'è il Wolfsburg, dove così come il Bayern troviamo degli italiani, perché nella squadra della Volkswagen giocano Barzagli e Zaccardo, e quindi l'Hamburgo, che è una squadra che per tradizione ha sempre occupato più o meno le posizioni nobili della classifica. Ci sono anche qui 4 squadre in 4 punti, quindi anche qui lotta aperta. Come tutto sommato la Germania aveva regalato nelle ultime stagioni, tolto qualche anno in cui il Bayern aveva preso abbastanza in fretta al largo, per il resto in tanti campionati magari aveva vinto lo stesso il Bayern ma facendo sempre una discreta fatica, mai o quasi mai insomma maramaldeggiando sugli avversari. E poi c'è ancora l'Hoffenheim, che tutto sommato è rimasto in scia. L'Hoffenheim è una specie di Chievo, una specie di miracolo della Bundesliga, è stata lunga in testa, ha pagato nella pausa invernale il grave infortunio del suo miglior giocatore che è Ibisevic, quindi adesso fa un pochino più di fatica, però insomma bene o male è restata a meno 6, quindi non è distantissima, per cui anche la Germania può offrire un bellissimo finale di campionato. Come ripeto, però in Germania è abbastanza tradizione, è difficile trovare dei campionati che si decidano con grande anticipo. In Inghilterra invece, qui arriviamo alla casa madre per quello che ti riguarda dal punto di vista dell'affezione oltre che della competenza, in Inghilterra c'è che il Manchester può addirittura permettersi, secondo me senza contraccolpi gravi, ma questo poi sarai tu a dircelo, può addirittura permettersi di farsi travolgere in casa da Liverpool come non accadeva da tempo immemorabile, ma conservare comunque una leadership più che rassicurante, mi pare. Sì, anche anche perché ha 4 punti di vantaggio sul Liverpool e Chelsea, ma ha anche una partita in meno. La partita in meno è in casa con il Portsmouth, è la partita che non fu giocata nel giorno in cui il Manchester era impegnato nella finale, guarda caso vinta, di Coppa di Lega. Il Portsmouth attualmente è terz'ultimo in classifica, quindi ragionevolmente assegnando i 3 punti al Manchester, il margine è di 7 punti. Non avendo più il Manchester confronti diretti, se non quello con l'Arsenal, che però affronterà in casa, credo che 7 punti a 9 giornate dalla fine siano comunque un bel margine, anche perché appunto il Manchester può avere una caduta di tensione come nel caso della partita con Liverpool, dove penso che la bruciatura derivi più che dal fatto di aver perso 3 punti in classifica, dal fatto di averlo fatto con la squadra che è acerrima rivale dello United. Insomma, a Liverpool comunque se lo ricorderanno per una ventina d'anni, un successo di 4-1 all'Old Trafford contro il Manchester United. Però insomma, ripeto, fermo restando che il Manchester dovrebbe conquistare i 3 punti contro il Portsmouth, io credo che 7 punti di vantaggio una squadra come quella di Ferguson non li butti via, anche perché se il Manchester ha il disturbo della Champions League, lo stesso disturbo ce l'hanno anche Liverpool e Chelsea, per cui in questo caso non c'è un vantaggio delle inseguitrici nello sperare in distrazioni eccessive di chi fugge. Non c'è dubbio. Devo ringraziare un ascoltatore di nome Beppe perché ci ha mandato un messaggio un minuto fa e subito, opportunamente, velocemente verificato da Francesco Di Bruno, assistente oggi a Da Tempo di Sport. Morale, oggi non è solo il compleanno di Giovanni Trapattoni, è anche il compleanno di Stefano Borgonovo. Che sapete è l'ex calciatore di Milan e di un sacco di altre squadre, che sta lottando contro la SLA. Stefano Borgonovo è nato a Giussano il 17 marzo, quindi vicinissimo a Cusano Milanino, dove luogo originario del Trap, il 17 marzo del 64, quindi oggi compie 45 anni. È curiosamente, ringrazio, ripeto, questo ascoltatore di nome Beppe, e devo dire che è più attento lui dei quotidiani italiani, anche di quelli sportivi, perché stamattina questo dato sui giornali sinceramente non l'ho trovato, e quindi lo ringrazio in maniera particolare perché consente a tutti noi di fare gli auguri più affettuosi e più sentiti a Borgonovo e alla sua lotta contro la SLA. Chiudiamo questa prima parte, perché poi abbiamo un altro capitolo che riguarda una Superlega che potrebbe, uscita dalla porta, provare a rientrare dalla finestra. Questa ne parliamo dopo l'intervallo. Invece, in quest'ultimo minuto e mezzo che ci rimane, con Nicola Roggero, il punto sulla situazione spagnola. Dunque, io credo che il Barcellona abbia superato quella mini crisi, se così si può dire, che l'aveva attanagliato fino alla ventina di giorni fa. Barcellona aveva fatto un punto in 3 partite, non aveva giocato benissimo l'andata contro il Lione, era finita 1-1 la partita da Gerland, con il Lione che però aveva avuto anche l'occasione di realizzare il 2-0 colpendo un palo. Il Real Madrid si era riavvicinato in qualche maniera, aveva riaperto un campionato che a dicembre, insomma sotto Natale, dopo il confronto diretto, appariva strachiuso, e qualcuno aveva pensato che il Barcellona potesse cedere. Ora, io credo che il Barcellona non avrà problemi in campionato, avendolo anche fatto, commentato personalmente nella partita di ritorno con il Leone. Io credo che il Barcellona sia una squadra fenomenale dalla cintola in su, cioè per quanto riguarda il reparto offensivo. Quarto d'ora tra il 24esimo e il 40esimo primo tempo, in cui il Barcellona ha segnato 4 gol al Lione e avrebbero tranquillamente potuto essere 6, è uno spettacolo che qualunque appassionato di calcio non si può perdere. Il problema del Barça resta il lato B, se così possiamo dire, perché in quella stessa partita, in cui al 40esimo si poteva tranquillamente pensare di prenotare il ristorante per mangiarsi paella con vino tinto sulle Ramblas, in quella stessa partita il Lione da 4-0 è risalito sul 4-2 e a 10 minuti dalla fine Benzema, quasi incredibilmente, visto che parliamo di un grande talento, solo davanti a Víctor Valdés, portiere del Barcellona, ha fallito il gol del 3-4 che avrebbe portato la partita a dei fuochi artificiali negli ultimi 10 minuti straordinari. Credo che questo sia il problema del Barcellona, un problema che non gli darà problemi in campionato, perché comunque il margine sul Real è abbastanza solido e mi sembra che il Real non sia quest'anno la squadra che onori la storia della camiseta blancos. Però in Champions League io credo che il Barcellona avrà qualche problema in più a riuscire ad affermarsi, specialmente contro le squadre inglesi che ultimamente hanno imparato anche a difendere, hanno evidentemente appreso molto dagli allenatori stranieri che hanno portato delle correzioni tattiche che sono state decisive. Con Nicola Ruggero, Ruggero chiudiamo oggi il capitolo del calcio internazionale provando a esaminare e chiedendoti un'opinione su questa su questo possibile rilancio della Superlega europea. È un'anticipazione e probabilmente una forzatura forse anche di France Foot, che è una rivista francese, secondo cui si starebbe pensando a una Superlega addirittura strutturata in tre serie, con 22 club nella Superlega A, che assegnerebbe il titolo di campione d'Europa, praticamente l'attuale Champions, ma ingrandita e con non più le 13 partite per vincerla che sono necessarie oggi, ma addirittura 24, insomma in realtà un altro campionato, comporterebbe ovviamente la riduzione dei singoli campionati nazionali, una Superlega B che equivarrebbe grosso modo all'UEFA di oggi e poi anche una Superlega C con le qualificazioni dei campionati, tutto ciò anche con retrocessioni, insomma con una formula dei supercampionati europei in piena regola, nettamente contrario a Platini che a suo tempo era riuscito a convincere quelli del G14 a lasciar perdere con le loro proposte e le loro tentazioni di simile NBA. E quindi appunto buttata fuori dalla porta questa idea rientrerebbe dalla finestra. Che ne dice il ministro Ombra? Guarda, il ministro Ombra è d'accordo in questo caso con il presidente dell'UEFA, io conto veramente su di lui perché sono delle idee cicliche che storicamente vengono fuori ogni 7, 8, 10 anni. Al di là del fascino della Champions, della bellezza di vedere incontrare il Liverpool con il Real Madrid, l'Inter con il Manchester United, il Bayern Monaco col Milan e via discorrendo, io continuo a pensare che comunque ci sia una tradizione, una storia o un prestigio nel calcio che sia dato anche dal confronto con il vicino di casa. Qui parlo un po' pro domo mea, io credo che comunque il fascino del derby di Torino, che intuisco in quella Superlega certamente non ci sarebbe, finirebbe per essere irrimediabilmente perduto. Si salverebbero a Milano perché chiaramente Inter e Milan sarebbero tutti due dentro. Genoa Sampdoria appunto credo che verrebbe relegato ad un derby di seconda o di terza categoria, visto che non credo che nell'una nell'altra troverebbero posto, così come in Inghilterra probabilmente il tifoso del Manchester United vuole comunque sfidare quello del Manchester City. Io credo che la bellezza di veder giocare un grande confronto tra due squadre ci sia nel momento in cui questo confronto si propone ogni due o tre anni e in qualche modo diventa un momento poi da ricordare. Quando questo confronto c'è tutti i giorni, forse finirebbe per perdere in qualche maniera un po' di fascino. Insomma, la bellezza del calcio è anche quella di andare poi al mattino dopo la partita e sfottere al bar quello che ha tifato, che tifa per l'altra squadra. Non credo che questo potrebbe succedere se io tifoso, per dire, milanista, batto il Liverpool, al bar certo al mattino non trovo il tifoso del Liverpool, quindi si perderebbe anche questa connotazione, per cui il ministro Ombre in questo caso è totalmente a favore del governo UEFA di Michel Platini nel bloccare questa iniziativa che, ripeto, a mio parere toglierebbe molto del sale del calcio. E io sto in pieno con te e con Platini. Grazie a Nicola Ruggero. Grazie Gigio, grazie agli ascoltatori. Grazie al ministro Ombra per quello che attiene agli affari esteri dei campionati, delle coppe, e avete sentito anche di vari ed eventuali, no? Per restare con quel tipo di linguaggio. A proposito di vari ed eventuali, quando gli ascoltatori si scatenano davvero non ce n'è per nessuno. Ogni tanto accade, no? Coi trip da moviola, purtroppo, ma per fortuna ogni tanto accade anche con un po' di sana cultura sportiva e di sano culto della memoria. Allora, vi ho detto prima che un ascoltatore di nome Beppe mi ha segnalato che oggi è il compleanno anche, non solo del Trap, ma anche di Stefano Borgonovo. Un altro, che si chiama Claudio Della Ferrera da Monforte, che ringrazio in maniera particolare, si spinge addirittura oltre e ha trovato che oggi sarebbe stato il compleanno di Gianluca Signorini, pensate, che era nato il 17 marzo del 60, che è morto nel novembre del 2002 e che purtroppo ha preceduto Stefano Borgonovo in quello scena degenerazione di malattia che si chiama SLA. E quindi grazie a questo ascoltatore piemontese Langarolo per averci ricordato che oggi non è soltanto la festa del trap, ma è anche la commemorazione di un vecchio campione, di un vecchio signore, come era Signorini, e non è un gioco di parole a caso, ed è il compleanno, ed è un'altra occasione in più per stringersi intorno a Borgonovo. Cambiamo capitolo e arriviamo ai primi interventi degli ascoltatori di oggi. Alberto da Milano, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Dica. Sono Alberto, abito a Novate Milanese, vicino a Cusano Milanino, abito il signor Trapattoni. Sì. E ho avuto la fortuna anche di stare in panchina con lui, averlo in panchina. È una persona molto carismatica, volevo fargli gli auguri. In panchina quando? Dove? Era una partita amichevole tramite aziende, tramite conoscenze. È venuto Giovanni in panchina a noi, è proprio una persona veramente stupenda e carismatica. Io, il mio intervento era per il fatto che io faccio l'arbitro nel settore giovanile a livello amatoriale. Sì. E io dico, come mai tutta la stampa non riesce mai a inculcare nella testa dei giocatori che sarebbero loro i primi a aiutare gli arbitri? Ecco, era tutto qua il mio intervento. Ma secondo lei compete alla stampa questo? Cioè la stampa di responsabilità ne ha tante, di irresponsabilità purtroppo pure. Non so dire se altrettanto, forse anche di più, però insomma, che tocchi alla stampa educare il giocatore al rispetto dell'arbitro e anzi all'aiuto che gli dovrebbe dare, beh, insomma, io credo che si potrebbe cominciare altrove, si potrebbe cominciare in società, dai tecnici, possibilmente dai settori giovanili. È un lavoro che poi si può fare insieme, ma insomma non... La stampa dovrebbe fare la sua parte, ecco. Per esempio, secondo una mia ormai non più recentissima idea, rottamando la moviola, per esempio, questa parte sì la potrebbe fare, ma per rottamare la moviola bisogna fare un salto di qualità sportivo che non credo siamo, non dico pronti, ma nemmeno vicini a fare. Temo proprio. Tocca Lorenzo dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Sì, grazie. Desideravo una sua opinione su una cosa che è mia probabilmente. Cioè io mi sto disgustando sempre più del calcio, ma non per un elemento, moviola, arbitri, tante chiacchiere, per tutte queste cose messe insieme. Cioè sto perdendo il gusto di vedere una partita, perché anche se non credo ai complotti, però poi il retropensiero se ne va lì. Sto perdendo il gusto a vedere dei calciatori e considerarli bandiera, perché mi cambiano squadra sempre. Sto perdendo la squadra mia, il Milan, mi fa perdere anche dei miti, facendomi giocare ancora Maldini a 41 anni. Perdendo un po' anche, non lo so, il mito, già l'aveva fatto con Baresi. Io sto perdendo il gusto del calcio. È una sola cosa. Lei pensa che sia qualcosa che riguarda solo me? O no, penso, no, no, non lo penso affatto, Lorenzo. Anzi, credo che magari non in questa misura, e magari non facendo questa insalata che lei, cui lei ci ha messo dentro Maldini che sopravvive a se stesso insieme ad altre cose che mi pare c'entrino molto poco e non siano fortunatamente compatibili tra loro, però insomma il senso, ripeto, pur con degli esempi discutibili, ma il senso del suo discorso credo sia chiaro, e credo anche che oltre ad avere qualche fondamento, più di qualche fondamento, sia a vario titolo e con varie modalità abbastanza condiviso. Ne sentiamo ancora uno degli amici già collegati. Luca da Torino, buongiorno. Buongiorno, sentivo nella presentazione della sua trasmissione che ha fatto un cenno alla vicenda lanciata dalla Gazzetta dello Sport di oggi di Ibrahimovic. Io penso che sia il risultato dell'eliminazione del Manchester che sta generando i problemi che secondo me a fine stagione poi dopo andranno ad ampliarsi, nel senso che l'Inter è una squadra che è nettamente superiore in Italia, ma non è competitiva per giocare all'estero, al di là di quello che può aver dimostrato la partita di Manchester, senza dimenticare che lo stesso Manchester, che in quell'occasione poteva sembrare un pochino in difficoltà, quattro giorni dopo ha dato l'esatta probabilmente immagine della propria forma, perdendo in casa 4-1 con Liverpool. Beh, adesso non esagererei, vediamo, esagero un no, visto che lei è piemontese, no? Cosa dice? No, io dico che secondo me il Manchester United, visto nelle due partite con l'Inter, non era all'apice della forma. Ma nella prima mezz'ora sì, ha giocato con troppa sufficienza a San Siro e ha rischiato di complicarsi la vita, ma adesso dire che una squadra che ha perso una partita con Liverpool, ha persa stranettamente, ma che veniva da tre mesi in cui non ha fatto toccare il pallino agli avversari, dire che fosse in un momento negativo, ripeto, vediamo di non esagerare, anche se capisco che le passioni di parte portano oltre i ragionamenti. Ibrahimovic, ci sono i numeri che spiegano che ha segnato, sto leggendo da Repubblica di stamane, ha segnato 49 gol in 79 partite giocate in Serie A con l'Inter e ne ha segnati 0 su 16nei confronti di eliminazione diretta in Coppa. Quindi questi sono numeri e su questi si può ragionare, tutto il resto sono valutazioni. Luca, grazie. Beh, da Lugano Giancarlo, per la completezza dell'informazione, va addirittura oltre a proposito di compleanni, e ricordo che oggi sono nati anche Recoba e Raducioio. Io Giancarlo la ringrazio in modo particolare, non solo perché lei ci ascolta dall'estero, diciamo, pure, anche se è un estero così, così vicino, ma la ringrazio anche per aver reso un pochino più lieve questa data, perché sinceramente che il 17 marzo sia il compleanno di Borgonovo insieme di Signorini mi ha un pochino turbato, che lo sia anche di Recoba e Raducioio ci dà un po' più di lievità, no? E forse anche qualche sorriso, qualche sghignazzata ricordando qualche prudezza alla rovescia di questi due. Di sicuro è il compleanno di Giovanni Trapattoni. Allora proviamo a sentire qualche altro frammento ricavato dalla sua conferenza stampa del settantenne. Sentiamo il primo. Sì, anche se coi se o coi ma, forse la finale di Atene, perché avevo il dubbio su come schierarci. Poi quel dubbio lì si è un po' avverato e abbiamo perso la partita. E questa era la domanda, era qual è la partita che Trapattoni, la partita della sua vita che Trapattoni vorrebbe rigiocare, ed è la finale di Atene di Coppa Campione 83 Juventus-Amburgo. Ho letto sulla stampa, in una lunga e come sempre deliziosa intervista di Roberto Beccantini al Trap, che Trapattoni racconta anche che alla vigilia di quella partita aveva pensato di escludere un attaccante e di coprirsi un po' più in difesa, si consultò con l'allora presidente Boniperti e Boniperti lo sconsigliò dicendogli se fai questo e poi perdiamo ci lapidano o qualcosa di questo genere. No, non lo fece e persero. Trapattoni voleva coprirsi un po' sulle fasce, proprio il settore, quello di sinistra d'attacco, da cui venne quello storico gol di Magat che produsse uno dei risultati più incredibili della storia recente del calcio. Un altro frammento, credo riguardi la dimensione dell'Italia in Europa, ancora il Trap. Ci deve essere un momento di coscienza che anche le altre nazioni sono cresciute, oramai la tattica, la strategia la conoscono tutti, i giocatori internazionali girano per il mondo e quindi una volta vincevamo anche con poca informazione, bastava un po' la fantasia e la creatività. Oggi dobbiamo adeguarci ai ritmi, alla mentalità, alla forza fisica, quindi a un concetto interpretativo che non sempre può essere solo il nostro. La gara va interpretata e se non è possibile giocare bene, però per vincere bisogna giocare in un altro modo. Quindi questo io ne ho fatto un credo già da tanto tempo, mi sta dando ragione, anche se qualche volta lo spettacolo è un po' asettico e magari manca. Breaking news. A Siena è crollato il controsoffitto di una piscina comunale, per la precisione la piscina comunale di Poggi Bonzi. Sarebbero una decina i feriti, tutte persone che stavano nuotando nella vasca della piscina. Ci sarebbero anche due bambini. Questa è la notizia, ovviamente nel corso del GR24 delle 15 vi forniremo ulteriori particolari. Beh, è altrettanto ovviamente questo spazio a disposizione nel caso arrivassero aggiornamenti, tanto più se questi aggiornamenti dovessero essere rassicuranti. Torniamo per il momento agli amici già collegati, per esempio Walter da Alessandria, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo l'ho chiamata in merito all'articolo apparso sulla Gazzetta dello Sport su Ibrahimovic e su sì. quello che si ventila in giro. Sì. Volevo semplicemente, lo faccio anche un po' con una punta di cattiveria, essendo io uno juventino, volevo semplicemente dire che i campioni e le squadre non si fanno coi soldi, che i campioni sono di un'altra pasta, vedi alla voce del Piero, e che un grande giocatore, per rimanere nella storia, nella memoria dei suoi tifosi e guadagnarsi il rispetto dei tifosi contro, come legge la voce del Piero, legge la voce Inzaghi, legge la voce... lascio l'elenco a chi vuole sì. continuarlo, il rispetto se lo guadagna quando si lega a un sogno, quando si lega a delle emozioni. Io quando Ibrahimovic se ne andò all'Inter fui molto amareggiato, perché comunque è un gran giocatore, averlo a Juve faceva piacere, però dissi: guardate, tempo 2-3 anni, poi se non vince una Champions o un pallone d'oro, Ibrahimovic se ne andrà pure dall'Inter, perché quello che vuole è solo una cosa personale, egoistica sua, e questo non gli permetterà mai di rimanere nella storia. Beh, questo è il calcio di oggi. Io non voglio difendere Ibrahimovic né tantomeno il suo manager, che mi risulta non far parte della cerca più eletta dei gentiluomini della nostra epoca, ma con tutto questo Ibrahimovic se la sta, ammesso e non concesso che poi le indicazioni siano vere, perché tenga conto che questa è una settimana in cui non ci sono coppe, non ci sono nazionali, non ci sono eventi, quindi è la settimana in cui vengono fuori voci e magari vociacce di mercato e proposte se non oscene quasi come quella di questa Superlega. Per il resto se la sta giocando più o meno come se la giocano tutti. Ormai il calcio moderno, e non soltanto da oggi, è quello che registra come eccezioni quelli che invece il calcio lo vivono non solo in maniera professionistica ma anche in un altro modo. Quelli come Ibra sono più o meno la norma, quindi è abbastanza relativo lo stupore che invece, lo dico molto sinceramente, ma il nostro ascoltatore mi perdonerà e ci spiegherà, leggo che si chiama Risveglio, dalla provincia di Forlì. Corrisponde? Corrisponde. Beh, il subabbo è restroso, o no? Ma qui dovrei tenerla una giornata intera, no, per spiegarle. Però Risveglio comunque. Risveglio. Sì. Mi chiamano Risveglio. Sì, sì, ma lei ha fratelli, sorelle? Chiede informazioni a Davide Paolini, che siamo amici. Sì, poi. con piacere. Sì. Senta, lei ha fratelli, sorelle, se non no, sono indiscreto? No, figlio unico. Quindi se la sono giocata così, insomma. Così. Lei mi fa questa domanda perché pensava che nell'eventualità di una sorella si chiamasse... Non so come si sarebbe chiamata, però certamente la curiosità c'era. La Romagna è un po' strana. La Romagna se la quelli della mia generazione. Io mi ricordo tre fratelli, credo nella zona di Lugo: Rivo, Luzio e Nario. Però pensi il padre, però, che fantasia, un bel trio. Esatto. Vabbè, vada, Risveglio. Senta, io dica. Garanzini la chiamo perché non so se lei ha visto la partita Manchester United-Liverpool. Sì. Io, siccome sono stato arbitro, e chiudo la parentesi, io non so se lei ha visto l'arbitro. L'arbitro sembrava il meccanico sotto casa o l'omino della porta accanto, tracagnotto, con un po' di pancetta, senza collo. Prima del fischio d'inizio, un giocatore, credo del Liverpool o del Manchester, teneva il braccio, la mano destra, sulla sua spalla e parlavano tranquillamente come fossero al bar, certo, o in piazza. Certo. Allora c'è stata la partita, ha arbitrato egregiamente, ha dato due rigori che c'erano tutti, sì. Non ci sono state contestazioni da parte del pubblico. Allora io mi chiedo, è poi così necessario che in Italia si cerchi a tutti i costi l'arbitro alto, biondo, con gli occhi azzurri alla Rosetti, l'arbitro atletico, l'arbitro che comunque deve fare tre allenamenti alla settimana, oppure probabilmente andare dal meccanico sotto casa o dall'omino della porta accanto. Potrebbe essere più rassicurante. Ha capito? Adesso è chiaro che la risposta potrebbe essere l'Inghilterra, la mentalità. No, voglio dire. Lei lo sa, io quando facevo l'arbitro, io ho i capelli bianchi, ho 58 anni, allora facevo la Serie C, una voce che contava mi disse: ma sai, tu in campo sembri più vecchio dell'età che hai, perché hai i capelli bianchi, perché non te li tingi? Pure. Io non le nascondo che per la carriera feci per un periodo anche questo. Allora io vedendo la partita sabato del Manchester con il Liverpool, sono tornato un attimino indietro e mi sono chiesto, ma guarda un po', già vent'anni fa mi chiedevano di nascondere... Ecco, Risveglio, mi scusi, guardandosi allo specchio dopo aver visto il meccanico di cose e ripensando a quella volta che c'è cascato, insomma, che si è tinto, non si è dato un cartellino giallo allo specchio? Sì, me lo sono dato, tant'è vero che è durato un mese o due. Meno male, vabbè. Quindi ha diritto alle attenuanti generiche. Io la ringrazio molto del suo intervento, che come avrà notato è durato il tempo che doveva durare, anzi forse persino troppo poco, perché era particolarmente divertente. No, ma particolarmente significativo anche. Adesso abbiamo le notizie sul traffico, poi volevo continuare con questa riflessione che lei ci ha suggerito a proposito del meccanico e arrivare da sabato a domenica e a Orsato a San Siro. Sarebbe il momento del ripasso di storia, anzi lo è per la verità, che tarda un minuto, giusto perché intanto è arrivato un messaggio... Che se lo ritrovo, perché al momento me lo sono perso. Ah no, è firmato Alessandro Agosti e dice: ormai il calcio lo seguo solo tramite la sua trasmissione, oggi mi sento figlio del Trap e fratello di Borgonovo. Ci aggiungerei cugino di Signorini e comunque questo è un messaggio che vale l'intera trasmissione, la ringrazio Alessandro davvero. Poi ci sono anche argomenti più lievi, per esempio Sebastiano domanda se convocherei la coppia Cassano-Pazzini in nazionale. In questo momento direi di sì, in questo momento una convocazione la meriterebbe e anche una prova forse, magari anche proprio per misurare poi la caratura internazionale di questa coppia, perché siamo sempre lì, ce l'hanno dimostrato le coppe, no? La settimana scorsa la Champions e quella prima la Coppa UEFA. C'è una dimensione nazionale e c'è una dimensione internazionale. Mi sembra che le cose non sempre coincidano. Secondo il Sun, il sito del Sun per la verità, e forse queste notizie non bisogna nemmeno leggerle, la Juventus sarebbe pronta a spendere 12 milioni per Malouda. Io penso che siano 12 milioni per Malouda, credo che siano notizie messe in giro dal sito dei parenti di Malouda più che dal sito del Sun. Allora facciamo questo ripasso di storia. Nicola Filippone. Sembra ieri. 17 marzo 1991. Diego Armando Maradona si esibisce per l'ultima volta al San Paolo. Il Pibe d'Oro regala al suo erede Gianfranco Zola l'assist per il colpo di testa vincente, che consente al Napoli di Bigon, campione d'Italia ma solo decimo in classifica, di battere il Bari. Al termine della gara, l'argentino si sottoporrà al controllo antidoping che metterà fine dopo 7 stagioni alla sua avventura napoletana. La presenza di cocaina nelle urine gli costerà 15 mesi di squalifica che sconterà in Argentina. Ritornerà a giocare nel settembre del 92 con il Siviglia, allenato dal suo vecchio tecnico Carlos Biliardo. Proprio così, andò a quella maniera. L'ascoltatore romagnolo ha suscitato grandi consensi. Alex da Torino sintetizza e dice: Risveglio, presidente dell'AIA. Io devo dire che per quei 3 minuti che l'abbiamo ascoltato condivido l'opinione di Alex, soprattutto dopo aver ascoltato per altrettanto tempo il neo presidente dell'AIA Nicchi. Io sarei per Risveglio, ma proprio nettamente. Torniamo agli amici ascoltatori. No, avevo promesso una piccola riflessione su, proprio suscitata innescata dall'ascoltatore romagnolo, da questo amico dal nome curiosissimo che è Risveglio. Lui parlava del meccanico sotto casa che ha diretto perfettamente Manchester-Liverpool. A me è sembrato che per un'ora e dieci, fino a quando si sono comportati in maniera accettabile interisti e fiorentini, avesse arbitrato non bene ma benissimo Orsato da Schio a San Siro, considerando anche che è un giovane arbitro, un giovane ragazzo. Poi In Italia è impossibile che una partita tirata possa restare entro i limiti, entro i binari, per i comportamenti di chi è in campo e poi di chi è in panchina, di chi è nei dintorni, possa restare così fino alla fine, sicché poi a un certo punto Orsato ha finito per andare un pochino insieme, per commettere due o tre errori che secondo me non derivavano dai limiti suoi, bensì da quanto nel frattempo era impazzita la maionese della partita. Allora, abbiamo 5 minuti, li dedichiamo agli ultimi ascoltatori già collegati con noi. Fabio, provincia di Modena, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Io sono tifosissimo del Milan, il mio intervento quindi è sul Milan. Si parla tanto di Leonardo, di Rijkaard e di tanti altri nomi. Io invece sono convinto che se il Milan quest'anno va in Champions League, Ancelotti il prossimo anno, un altro anno se lo fa. Come lui sono convinto che rimanga un altro anno anche Maldini. Volevo sapere se lei la pensava come me. Guarda, saluto Ruspa, che è un mio carissimo amico, so che l'ascolta. Vabbè. Saluto. Grazie a lei Fabio. Senta un po', non cominciamo con i saluti e con le dediche, perché insomma, fino a Prago Tare questa è Radio 24. Senta, io auguro ad Ancelotti di restarci. Di restare, e credo anche di poterlo augurare al Milan e ai tifosi. Non ci credo, ma perlomeno gliel'auguro. Non auguro sinceramente a Maldini di giocare un altro anno a pallone, perché credo che abbia giocato almeno un anno di troppo per un Maldini, intendiamoci. Domenico da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, volevo fare notare brevemente il gesto di fair play di Pagalino, mi sembra domenica. Praticamente aveva detto all'arbitro che il suo tiro, il suo cross non era stato deviato, sì. Se non ricordo male. Poi una cosa su Ibrahimovic, bisogna anche rendersi conto che lui è lì da solo, fa reparto da solo, è tutto l'anno che sta giocando, a parte qualche leggero infortunio, insomma, ci vorrebbe una spalla diciamo all'altezza, secondo me. Un'ultima proposta provocatoria, poi chiudo. Sì. Perché gli allenatori non facciamo come i rugby, li facciamo stare in tribuna nel calcio italiano? Almeno stanno più tranquilli. Grazie, arrivederci. Grazie a lei. Beh, nel caso di qua, a parte che in tribuna si vede meglio, e sono pressoché unanimi loro nel dirlo questo. Comunque con certi arrofapopoli più stanno lontani dal bordo campo è meglio, indubbiamente, tanto ai loro giocatori possono fare solo danni facendo finta di guidarli come se fosse un videogame, possono soltanto confondergli le idee, sicché se dall'alto davvero si vede meglio, oltretutto sarebbero un po' meno istigatori in certi casi, non faccio nomi, ma insomma credo che non sia impossibile risalire perlomeno a qualcuno. Moreno, provincia di Macerata, buongiorno. Salve, buongiorno e complimenti per la grande. Sì, grazie. Un piccolo approfondimento sul titolo della Gazzetta relativo ad Ibrahimovic. Sì. Io, ferma restando la buona fede di chi ha scritto l'articolo, faccio una enorme fatica a capire l'essenza dell'articolo stesso e di quello che vuole questo Ibrahimovic, sostanzialmente. Perché ci sono due statistiche che sono impietose nei suoi confronti. La prima è che il giocatore europeo più pagato, il suo stipendio è fuori mercato. Il secondo è che lui è il giocatore a livello europeo meno decisivo tra tutti i grandi campioni. E quindi? Allora io mi chiedo, come fa lui a pretendere di cambiare squadra addossando quindi alla squadra la responsabilità di non riuscire ad assumere un livello europeo sufficiente, quando è lui un componente di questa squadra? E in special modo, se lei lo ricorda, sia quest'anno a Manchester che lo scorso anno contro il Liverpool, proprio Ibrahimovic ha avuto sui piedi. Sì, Moreno, sì, d'accordo. Dopodiché, fermo restando che in una società ideale i contratti si rispettano fino in fondo e nemmeno si discutono durante, mentre sono in corso, questo è tutto un altro film. Dopodiché io credo che se lei ricorda l'altro anno Ibrahimovic, quando è guarito, poi possiamo discutere sulla durata del malanno, ma insomma quando è finalmente guarito, l'Inter ha vinto un campionato nell'ultima mezz'ora che se no non vinceva mai, e, per esempio, e se lei toglie quest'anno quello che hanno fatto il portiere e Ibrahimovic, andiamo a vedere cosa rimane dell'Inter, no? Così a grandi linee, sicché è vero in parte quello che lui dice, le considerazioni possono essere tante. E comunque per un'indiscrezione di giornale non starei a... lei ha parlato di essenza addirittura. Beh, insomma, estrarre essenza da un articolo di mercato apparso su un quotidiano sportivo e per di più attribuibile in buona parte al manager di una stella discretamente mercenaria come quasi tutte ormai, beh, insomma, la parola essenza vediamo di non sprecarla. C'era Francesco Di Bruno oggi in assistenza al programma, c'era Pietro Lacorte in regia. Grazie a tutti per l'attenzione, appuntamento a domani.